1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7 e 20 minuti in punto nel giorno in cui inizia la 202esima, 202esima, fate voi, settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché la 13esima per la riforma elettorale. Decisive, ovviamente, come settimane. Staremo a vedere, dai, questo è lo spazio con Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli in redazione, che non ho citato prima, della rassegna stampa, la spazio dedicato alla lettura dei giornali. Andiamo. Buongiorno a tutti, sono Nicky Vendola. Anch'io la mattina, mentre do la pappa a Tobia, spesso ascolto Alessandro Milan. E ciccoso proprio. Va bene, va bene. Allora, i giornali in questo lunedì 13 marzo, giornali non tutti in edicola. Il Sole 24 Ore è in sciopero, forse lo sapete, in sciopero a oltranza per chiedere l'uscita del direttore. Tra l'altro, come sapete, se ci seguite, anche Radio 24 aderisce con lo sciopero delle firme dei giornali radio per chiedere all'editore un immediato segnale di discontinuità. E allora, i quotidiani invece che trovate in edicola, cominciamo dal Corriere della Sera, che apre con un'attualità internazionale. E cioè Erdogan, l'Olanda pagherà, vale a dire una tensione che cercheremo di spiegare perché si è improvvisamente è diventata incandescente tra Olanda e Turchia dopo che a Rotterdam è stato negato un comizio al ministro degli esteri turco. E quindi l'attualità internazionale per il Corriere della Sera in apertura. Repubblica invece, lo vedremo tra poco, ecco le indagini sugli sciacalli del terremoto. La Stampa sulla politica, primarie PD, la sfida inizia sui migranti. Orlando, torno in piazza per loro, mentre Minniti, ministro all'interno, dice la sicurezza è di sinistra. Per il giornale, il dopo Napoli, sfasciano le città ma i giudici li lasciano liberi. Libero invece, chi fa i soldi con gli immigrati? Ecco il mercato degli schiavi. Per il Messaggero, la politica, Renzi sfida il Movimento 5 Stelle sulla giustizia. Il Giorno apre sul ristoratore di Lodi che ha ucciso un ladro e dice non volevo uccidere. Queste le parole di Mario Cattaneo in prima pagina. Mentre Renzusconi, lo definisce così il Fatto Quotidiano, cioè vale a dire Renzi Berlusconi, nessuno li può giudicare. Al Lingotto, processione dei democratici per omaggiare l'indagato Lotti. Voglio però partire proprio dall'approfondimento di Repubblica, le prime pagine, e cioè quello che emerge con il titolo di prima pagina, gli sciacalli del sisma. È una notizia che Giuliano Foschini e Fabio Tonacci mettono in prima pagina di Repubblica. Di cosa si tratta? Ecco le indagini sugli sciacalli del terremoto, una serie di speculatori che sono nel mirino di tre procure. Gli sciacalli sono tornati, scrive Repubblica, anzi non se ne sono mai andati. Si aggirano sulle macerie del terremoto frugando nella disperazione per tirarne fuori lucro. Non si tratta più dei ladri che dopo le scosse si infilavano nei palazzi pericolanti. Gli sciacalli ora hanno il volto di chi vive a Roma eppure si finge terremotato per rubare allo Stato 600 euro mensili del contributo per l'autonoma sistemazione. Hanno la sfacciataggine di chi utilizza il nome di Amatrice per vendere braccialetti o magliette con la promessa di far beneficenza, salvo poi tenersi l'incasso. Hanno la faccia di chi alza i canoni degli affitti perché così impone il mercato, signori. È la legge della domanda e dell'offerta. Aumenta la domanda e cresce il prezzo. Prendere o lasciare. E non importa se quel prezzo lo paga chi ha perso tutto il giorno in cui la terra si è messa a tremare nel mezzo d'Italia. Dunque, sulle scrivanie di tre procure, Rieti, Fermo e Macerata, ci sono già 30 nomi di indagati. Persone che hanno chiesto di accedere ai contributi pubblici per sistemare le case, perché hanno dichiarato di non avere più un tetto. C'è un problema però, secondo i primi accertamenti, costoro non ne avrebbero diritto. E ancora, fuori controllo il mercato immobiliare, nelle zone attorno ai 131 comuni del cratere. Per esempio la denuncia del sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, Mauro Falcucci. Stiamo assistendo all'applicazione della fredda logica del mercato. Quando cresce l'offerta salgono i prezzi. I locatari sanno che le famiglie terremotate hanno il CAS, cioè il contributo di autonomo a sistemazione, e dunque hanno adeguato al rialzo le pigioni. Beh, tutto questo fa dire a Vasco Errani, il commissario per la ricostruzione, saremo durissimi con chi fa il furbo, ora l'obiettivo è detassare le imprese, ma comunque saremo duri. Certo, sono soprattutto le procure che indagano, è abbastanza squallido leggere tutto ciò, ma succede, sono le accuse agli sciacalli del sisma e l'apertura di Repubblica. Devo dire che invece molti quotidiani mettono in prima pagina, Il Giorno lo fa proprio come apertura, comunque questa storia ennesima che viene poi da in genere località di provincia, in questo caso siamo a Castelletto Lodigiano, la settimana scorsa, la vicenda di una legittima difesa o non legittima difesa, eccesso di legittima difesa, questo lo vedranno poi i tribunali se ci sarà un'indagine con un processo. Il dato di fatto che è la vicenda di Mario Cattaneo, ristoratore che si è svegliato in piena notte a Castelletto Lodigiano perché c'erano sotto dove abita lui e ora lui dice anche con i tre nipotini che ha voluto proteggere, i ladri sono entrati per rubare delle sigarette, non era pare la prima volta. Mario Cattaneo è sceso con il fucile carico e dice lui c'è stata una colluttazione, ha mostrato anche un po' in TV, forse avete visto i lividi, un grande livido al braccio destro. E poi nel cadere, visto che hanno cercato di rubarmi il fucile, è partito un colpo. Ora lui dice, ieri ha riaperto, tra l'altro, grande solidarietà. Ecco, se c'è una cosa che mi dà fastidio è... Poi sono i politici che mettono il cappello, che vanno lì, la solidarietà un po' pelosa, un po' interessata, diciamolo francamente. Comunque... I tavoli pieni nel locale di Lodi dell'oste che ha ucciso il ladro. Alessandro Fulloni racconta sul Corriere della Sera la cronaca. Lui che dice avevo paura che salissero, che raggiungessero le camere, ho tre nipotini, il mio pensiero è andato a loro, così ho preso il fucile che ho caricato prima di scendere nell'osteria in magliette e ciabatte, ma è andata in un modo in cui non doveva andare. La mia intenzione era di non far male a nessuno e ora sono triste, in crisi. Il colpo è partito mentre cadevo, mi trovo in una situazione che non avrei mai immaginato. Queste alcune dichiarazioni di Mario Cattaneo a 67 anni, ex alpino, ex alpini, Peter, come tu insegni, si rimane a vita, milanese, titolare dell'osteria degli Amis, dove giovedì notte ha ucciso il ladro entrato nella locanda per rubare. E la vicenda la trovate su tutti i giornali con il dibattito, ovviamente. Anche la polemica perché Flavio Tosi, sindaco di Verona, si è lasciato andare su Twitter. Per la verità non è l'unico sindaco storico, è Gio Formaggio, sindaco di Albettone Vicenza. Ma insomma anche Flavio Tosi ha scritto su Twitter: a casa ho inferriate, l'allarme e dormo con la pistola sul comodino. Senza leggi adeguate devo proteggere la mia famiglia. Flavio Tosi, la polemica fa discutere il suo tweet col sindaco di Verona che dorme armato. Saremo un popolo di armati? Questo è il dibattito che c'è. Voglio invece saltare sul Messaggero perché c'è una notizia di cronaca che riguarda una grandissima italiana, un'italiana che ha fatto la storia del cinema, che... Gina Lollobrigida. Cosa sta succedendo a Gina Lollobrigida? Almeno questo a leggere Michela Allegri a pagina 14 del Messaggero. È vittima di un raggiro? Questo è il punto di domanda. E questo è quello che si chiedono il figlio e il nipote della diva che hanno denunciato il manager di Gina Lollobrigida, il 29enne. Il 29enne Piazzolla, si chiama, Andrea Piazzolla, che da un po' di tempo... viene immortalato in foto con Ferrari, yacht, regali molto costosi. Pare avrebbe assunto il controllo di tutti i conti correnti di Gina Lollobrigida. Pare che filtri tutte le chiamate a Gina Lollobrigida. Eccolo qui, Ferrari, yacht, vacanze coi soldi della Lollo, denunciato il manager, la dolce vita del 29enne addetto alla tintoria, arrivato a gestire le proprietà della star. E sì, perché è partito così, da tutto fare, con delega alla tintoria, è arrivato ad essere l'amministratore delegato delle società che gestiscono la miriade di beni della diva Gina Lollobrigida, incaricato di dirigere un patrimonio milionario. Ecco la scalata sociale del 29enne Andrea Piazzolla, una scalata vertiginosa, e ora dicono il figlio e il nipote della Lollo, Milko e Dimitri Skofic, lo hanno denunciato per circonvenzione di incapace, perché il giovane starebbe depredando il patrimonio di famiglia. Dov'è la verità? Non si sa, ma il Messaggero fa un focus su questa notizia. Va bene, dai, siamo all'articolo invece che mi fa pensare della giornata, quello da Mani sul Volante. Se siete sul traffico, è a maggior ragione per questa notizia che in qualche modo riguarda il traffico. Problema numero uno a Palermo, come si sa. Siamo a pagina 17 di Repubblica. I pass disabili intestati a defunti. Il record a Palermo. I disabili sono morti, alcuni da anni, ma i contrassegni con la H a loro intestati continuano a essere utilizzati dagli eredi, che a rinunciare al lasciapassare non ci pensano affatto. È questo l'effetto dell'ultima verifica incrociata all'ufficio anagrafe di Palermo. 870 titolari di pass auto per disabili passati a miglior vita, ma come racconta Sara Scarafia, o Scarafia meglio, su Repubblica, sono pochissimi i familiari che, ricevuta la diffida del comune, hanno riconsegnato il lasciapassare. Gli altri si tengono il lasciapassare del disabile in famiglia. Uè, meno male che c'è il Milan, il conduttore, non la squadra. Assolutamente sì, per carità, per carità. Allora, la politica. Renzi ha chiuso la convention al Lingotto, la kermesse che ha lanciato la corsa al congresso del Partito Democratico. Beh, le frasi celebri anche qui trovate sui giornali un po' ovunque. La frase forse più emblematica è quella di Graziano Del Rio, che ha paragonato Renzi a Maradona. Maradona, Diego Armando Maradona, il pibe d'oro. Renzi è il leader. A Napoli nessuno aveva paura di mettere in campo Maradona. Senza di lui non si vinceva. Così Graziano Del Rio. Ma è un Renzi che attacca soprattutto sulla giustizia, sugli scissionisti. Nessuno ci distrugge. Ce n'è anche un po' per D'Alema, Bersaglio. Tanti parlano di Ulivo, gli stessi che lo hanno segato, che hanno contribuito a far cadere Prodi, sono esperti di xylella più che di ulivi, no? La xylella, cioè il batterio che uccide gli ulivi. E poi sulla questione giudiziaria ha anche detto a quelli del 5 Stelle, a chi minaccia in qualche modo di andare oltre, di non essere garantista, ha minacciato Renzi: ci vediamo in tribunale. Comunque, un Renzi che ha condannato soprattutto il giustizialismo. Fanno notare soprattutto Marco Imarisio, pagina 3 del Corriere della Sera, che invece Luca Lotti, ministro dello sport indagato, è rimasto defilato alla prova della platea PD. Un Luca Lotti che parla con Dario Franceschini, poi col tesoriere del PD Bonifazi, stringe decine di mani, ma dichiara: per favore, nessuna polemica, non sono mai salito sul palco neppure alla Leopolda, son fatto così. Teso? Per me non sono giorni esaltanti. Quando poi arriva a lui la domanda su giustizia, giustizialismo, presunzione di innocenza, il viso si fa tirato e risponde: arrivederci. Lotti, che si tiene lontano da Renzi e da Gentiloni, due catalizzatori delle visite nel retropalco, mentre il Lingotto si svuota, così fa notare Marco Imarisio, pagina 3 del Corriere della Sera. È un Lotti che dunque rimane defilato. E il Messaggero fa notare il passaggio di Renzi dal io al noi. Ma in realtà, a un certo punto, l'abbiamo fatto anche sentire, ha detto: qualcuno ha cercato di insinuarsi in un momento di debolezza della leadership, anche debolezza mia, un momento di debolezza che è finito a questo punto, e quindi in qualche modo è un Renzi che torna invece protagonista sull'io. Paolo Griseri racconta, al di là delle parole, delle chiacchiere, forse l'articolo più interessante, cioè di cercare di vedere qualcosa di concreto poi da questa kermesse, al di là appunto delle dichiarazioni politiche, che sono anche queste importanti. Pagina 6 di Repubblica, Paolo Griseri racconta: ecco cosa spunta ai tavoli di discussione. L'incentivo per l'assunzione delle madri, rifare il catasto nelle città per poter tassare le case in modo più giusto, distinguere chi affitta le stanze in modo occasionale dagli Airbnb che hanno alle spalle le grandi catene alberghiere. E ancora e soprattutto proteggere chi perde il lavoro con un assegno di ricollocazione legato alla formazione professionale. Questo e altro è uscito dai 12 gruppi di lavoro del Lingotto. Sono le prime indicazioni sulle proposte che il PD porterà il governo al giudizio degli elettori. Proposte concrete per provare a riparare qualche guasto creato dal renzismo dell'io, quello che ha perso il referendum di dicembre. Tra l'altro, a proposito di questo, visto che si parla di formazione, beh, non posso non finire su Repubblica, dove c'è una interessante inchiesta, Marco Ruffolo, la firma pagina 11, e riguarda proprio l'affare della formazione. È uno studio fatto da due economisti della Voce.info, Roberto Perotti e Filippo Teoldi. 7,5 miliardi destinati alla formazione, polverizzati in 500.000 progetti privi di qualsiasi seria valutazione. Questo è un po' il succo. Scrive Ruffolo: di cosa vorremmo accertarci prima di iscriverci a un corso di formazione finanziato da soldi pubblici ed europei con l'obiettivo di trovare lavoro? Che l'ente formatore sia serio, ovviamente, che sia accreditato dalla regione. Ma c'è una cosa ancora più importante: se in passato corsi simili si siano tradotti in nuovi posti di lavoro, in che misura? Conoscenza fondamentale per non perdere tempo e risorse, per evitare di arricchire gratuitamente i formatori con soldi pubblici. Conoscenza fondamentale, ma inaccessibile, perché le regioni, con qualche scarsissima eccezione, non fanno valutazioni per vedere se i disoccupati iscritti, pagati con fondi dell'Europa e dello Stato italiano, trovino poi lavoro grazie a quei corsi. Ma c'è di più. Quelle valutazioni le regioni non sono tenute a farle. La conferma arriva dall'accordo con il quale l'Italia fissa gli obiettivi per accedere alle risorse del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020. Quell'accordo avrebbe dovuto rimediare ai disastri della precedente programmazione denunciati dal meticoloso lavoro di Roberto Perotti e Filippo Teoldi, i famosi 7,5 miliardi polverizzati in 500.000 progetti. Ma così non è. Nel nuovo documento, tra gli indicatori di risultati che dovrebbero dirci se un corso di formazione è utile o no, troviamo ad esempio popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio di formazione professionale, oppure quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica, o ancora rapporto tra allievi e nuove tecnologie come PC e tablet. In altre parole, un corso sarà tanto più apprezzabile e quindi finanziabile quanto più alto sarà il numero dei suoi iscritti o quanti più tablet saranno messi a disposizione. Basta riempire le aule e il gioco è fatto. E poi, se questo sia realmente un corso efficace, vai a saperlo. Ecco, la formazione si parta da qui, forse. C'è polemica politica anche per il dopo Napoli. Salvini, che è andato a parlare a Napoli, e i centri sociali che hanno fatto una manifestazione, e poi questa manifestazione è degenerata. Tra l'altro parla la moglie del sindaco De Magistris, una persona che è sempre stata defilata, Maria Teresa Dolce, ma era in piazza per manifestare contro Salvini. E allora Grazia Longo sulla Stampa la raggiunge, pagina 16. Anch'io ero in piazza, il corteo era pacifico. Salvini è un razzista. Non sto con i razzisti come Salvini che odiano Napoli e il Sud. Io non sto con i violenti. Questo ha scritto Luigi De Magistris su Facebook. E allora ecco la moglie. Non sono pentita, i Black Bloc erano ai margini del corteo. Io comunque ho dovuto abbandonare prima che esplodessero le bombe carta. Avevo notato i Black Bloc, ma non facevano parte del corteo, che era assolutamente pacifico, composto da gente tranquilla, famiglie con figli, tamburi, c'era aria di festa, sembrava il carnevale di Scampia. Le frange violente stavano a margine del corteo. Anzi, noi eravamo sorpresi che fossero lì. Manifestare è un diritto costituzionale, eravamo animati da uno spirito pacifista. Non potevamo tacere contro il razzismo di Salvini e il suo odio per Napoli e per il Sud. E poi la degenerazione e le polemiche. Il giornale titola in prima pagina: tranquilli, sfasciano le città, ma i giudici li lasciano liberi. Ora però De Magistris è sotto accusa perché, questo almeno titolo del Corriere, lui ha detto non sto con i razzisti, ma aveva detto sto con i centri sociali, e questo ora gli viene rimproverato. Tra l'altro, gente che è andata in piazza come il sindaco, e o meglio la moglie del sindaco, contro Salvini, e gente che è andata ad ascoltare Salvini, e gente che non ti aspetti. Peppino Di Capri rilascia anche un'intervista al Messaggero a pagina 7. Io al comizio della Lega, per cortesia, sì, e per grande curiosità, mi sento un uomo libero e vado a sentire chi voglio e posso. Un amico mi aveva detto, Salvini aveva espresso apprezzamenti su di me. Sono andato a regalargli due miei CD. È vero, mi hanno accusato di sposare le idee leghiste. Prima che iniziasse ho detto, voglio vedere come te la cavi a giustificare le brutte cose che dicesti sui napoletani. Mi ha risposto che era roba di 4 anni fa e io gli ho detto, i napoletani non dimenticano. Vabbè, poi parla del comizio, cose già sentite in TV, non c'era molto di nuovo, ho trovato invece giusta l'idea delle tasse ad abbassare, ma chi non vorrebbe che diminuissero, non condivido invece l'uscita dall'euro che mi sembra una vera cavolata, e va bene, insomma, Peppino Di Capri ad ascoltare Matteo Salvini, ma non è tutto straordinario. Va bene, il nostro Mauro Meazza non c'è, sapete, essendo il Sole 24 Ore in sciopero a oltranza, tornerà quando ci sarà il sole il nostro Mauro Meazza, lui e il suo 7-1, va bene. Alessandro Milan, il tiketa takati tak, takami tak, mi takati taka tiketa takati tak, takati tito tak, dell'informazione. Ragazzi, ma straordinari comunque i nostri ascoltatori. Allora, siamo qui a continuare la lettura dei quotidiani. Perché si parlava prima di formazione, di lavoro, eccetera. Oggi sul lavoro c'è anche un interessante articolo di Rita Querzè, siamo sul Corriere della Sera, pagina 19. Al via 30.000 assegni per ritrovare lavoro. Di cosa si tratta? Partono le lettere per la sperimentazione del bonus di ricollocazione. Partiranno proprio questa settimana poco meno di 30.000 lettere destinate ad altrettanti disoccupati, scelti tra i 400.000 che in Italia possono contare sulla NASPI, l'indennità di disoccupazione. L'obiettivo? Trovare loro un lavoro nuovo entro 6 mesi o al massimo 12. Nominativi e indirizzi ci sono già, mancano solo i francobolli. In realtà la partenza dell'assegno è complicata perché sono molti gli attori costretti a collaborare. Si va dall'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, alle singole regioni, passando per l'INPS, le agenzie private per il lavoro, i sindacati. L'area di elezioni poi non aiuta. Ma la sperimentazione è questa. Poco meno di 30.000 che riceveranno la lettera dovranno prima di tutto decidere se rispondere o no. Chi risponde si mette in gioco, nel senso che nel caso arrivasse davvero un'offerta di lavoro, chi rifiuta rischia di vedersi ridotta progressivamente la NASPI fino alla perdita totale dell'assegno. Dal punto di vista di chi ha messo in piedi la sperimentazione, il tasso di risposta sarà anche una cartina di tornasole per vedere quanto pesa il lavoro nero nel nostro paese. Staremo a vedere, e questo lo racconta il Corriere della Sera a pagina 19. In tutto si è rivisto anche Berlusconi, che ha rilanciato il programma, ha detto soprattutto che ci vuole una doppia moneta, non è la prima volta che lo dice, sulla nuova lira convincerò la Lega. Sapete che vuole un po' mediare la Lega per l'uscita dall'euro, Berlusconi l'uscita dall'euro no, e allora si è inventato questa cosa della doppia moneta, la lira, il ritorno della lira, ma sempre a fianco all'euro. Va bene, andiamo un po' all'estero. Cosa sta succedendo tra Olanda e Turchia? Perché molti giornali, il Corriere della Sera addirittura mette il titolo di prima pagina, Erdogan, cioè presidente della Turchia, dice l'Olanda pagherà. Siete fascisti, scusatevi. Che cosa è successo? Perché uno legge questi titoli. Allora ricostruiamo. Da venerdì, come racconta Andrea Nicastro a pagina 10 del Corriere della Sera, da venerdì la situazione rischia di trasformarsi da un parapiglia a una feroce zuffa tra i governi di Olanda e Turchia. Sabato, per la verità, è cominciato tutto. Il sindaco di Rotterdam in Olanda ha vietato un comizio al ministro degli esteri di Ankara presso i turchi della sua città. motivo di ordine pubblico, ha dichiarato il sindaco. Di fatto l'Olanda è impegnata in una tesissima campagna elettorale nella quale il tema principale è la paura per l'Islam e lo straniero. Il premier olandese Rutte ha subito difeso la decisione e con una mossa irrituale ha chiuso gli aeroporti al volo del ministro turco. Infuriato, Erdogan ha definito l'Olanda un paese fascista, residuo del nazismo che vieta la libertà di espressione. Un po', adesso fatemi fare la battuta, un po' una vicenda Salvini a Napoli, no? Il ministro degli esteri turco a Rotterdam, giusto per far capire. E allora Erdogan ora minaccia, l'Olanda nazista la pagherà cara. La polemica è molto rovente, Tra l'altro la ministra cacciata, Fatma Betul Sayankaya, 36 anni, ha dichiarato, sempre secondo il Corriere, è una tragicommedia immorale. Le autorità olandesi ci hanno sottoposto a un trattamento disumano. E la ministra della famiglia e delle politiche sociali nel governo Ildirim fatica a nascondere la sua rabbia appena arrivata a Istanbul dalla Germania dopo una notte passata a litigare con la polizia olandese che prima le ha impedito di entrare nel consolato di Rotterdam, poi l'ha riaccompagnata senza complimenti al confine con la Germania. Dice lei, l'atteggiamento dell'Europa nei confronti di una ministra tre giorni dopo l'8 marzo è una tragicommedia. E va bene, vedremo se ci saranno sviluppi su questo fronte. Invece, se andiamo in Brasile, tutti i giornali raccontano che ti ha combinato il presidente del Brasile Temer. Ha abbandonato il palazzo presidenziale, quello firmato dal grande architetto Niemeyer. E perché ha abbandonato il palazzo presidenziale? Perché ci sono i fantasmi. Non ditelo troppo, nel senso, non sarebbe da dire troppo ad alta voce per la vergogna. Ci sono i fantasmi, ci sono delle presenze. Non dormo la notte, ha detto il presidente brasiliano, in tutto questo palazzo pieno di stanze avvertiamo delle presenze. Il presidente brasiliano in fuga dal palazzo, infestato dai fantasmi. Titolo del giornale. Aiuto, i fantasmi, il presidente Temer fugge da palazzo, titolo di Repubblica. Ma c'è ovunque questa vicenda. Oh, mannaggia. Vabbè. In tutto, se vogliamo tornare alle cose italiane, vi voglio segnalare un'intervista al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, che respinge tutti i sospetti sul caso Consip e dice la corruzione nasce dalla politica, in giro ci sono troppi Romeo. Questo è il titolo dell'intervista di Liana Milella, la trovate in prima pagina di Repubblica, poi continua un'intera pagina, pagina 4. Vi segnalo anche un'intervista a Mario Melazzini, che è il direttore da qualche mese dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, medico, 58 anni, da 15 anni affetto da sclerosi laterale amiotrofica. E Melazzini annuncia alla stampa la cura da 20.000 euro l'anno sarà gratuita per 1.800 malati. Si tratta di una cura molto particolare. È il Tolvaptan, che è finito tra i farmaci a carico del paziente, costa 20.000 euro l'anno. Ma nei prossimi giorni verrà ridiscussa la rimborsabilità di questo farmaco per il trattamento del rene policistico. È l'annuncio di Mario Melazzini. Ho già incontrato l'azienda produttrice del farmaco, presto vedrò la Società Italiana di Nefrologia, e lui, che è in carica da 4 mesi, assicura che per lui le priorità sono garantire ai pazienti le terapie necessarie e la sostenibilità della spesa farmaceutica. Questo è l'annuncio del presidente dell'AIFA Melazzini. Andiamo invece per un attimo in America per raccontare, e lo fa Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, soldi, soldi, soldi, che Ivanka Trump con il suo marchio ha avuto un 332% in più negli ultimi 2 mesi. Abiti e borse Trump. Faccio vedere anche qui nello spazio, nella nostra pagina Facebook pubblica, nella mia pagina, siamo in diretta video in questo momento, mi potete vedere lì. Abiti e borse Trump, il marchio Ivanka vola negli Stati Uniti, però è made in China. Ma non è tutto straordinario, cioè le borse sono fatte in Cina. China, China, China, ricordate Trump. Siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, ragazzi. La moglie di Bonolis va a Cortina e i twittatori seriali, i leoni da tastiera, i depressi, gli sfigati devono romperle le scatole dicendo: ma come, a Cortina coi figli, ma questi figli non vanno mai a scuola. E lei giustamente: no no, firmano con la X i miei figli. Una pagina dedicata a Lady Bonolis a Cortina e i social che la criticano. Ma chi se ne frega!